mia diletta è sola, e con la bella testa abbandonata posa tra le nella suona serenata buona, serenata buona, splende pura la luna, là nel silenzio stende, e dietro i peli dell'alcova bruna la lampada s'accende. Sorridendo ancor mezza sonnata, corna fra le nella suona, serenata vola, serenata vola, l'onda sogna sul lido, e il vento sulla fronda, e a baci miei cosa la coronido la mia signora biondo sogna sul lido londo sogna sul lido londo.